Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Che cos'è questa? Da un po' di anni, un bel po' di anni, è la prima puntata dell'anno. Quindi auguri, anche se ormai insomma è passato qualche giorno dai botti. È la prima volta che andiamo in onda. È la prima volta che andiamo. Auguri anche a te, Chiara. Grazie anche a te, Federico, e a tutti gli ascoltatori. Certo, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Questa è la prima puntata di Möbius, adesso i titoli e poi cominciamo con Sbadigli. La crisi di mezza età colpisce anche i bonobo. La scienza scopre affinità sempre maggiori tra noi e le grandi scimmie. Ritorna in libreria un classico dell'editoria scientifica. È La storia della tecnologia. 7 volumi, con un prezzo decisamente abbordabile. Lo scaffale interattivo. Consente il fai da te per tutti i materiali srotolabili, tubi da giardino, nastri, catene, stoffe. È un brevetto 100% italiano. Se aumenterà la temperatura, aumenteranno gli insetti. È uno scenario problematico per tutte le attività agricole. Sì, lo so, iniziare con gli sbadigli. Cioè, non è che saremo noiosi, Insomma, non cambiate subito stazione. No. Sbadigli nei bonobo. Nei bonobo. Adesso spieghiamo, perché i nostri ascoltatori dell'anno scorso, più assidui, si ricorderanno che abbiamo parlato forse un paio di volte degli sbadigli, del fatto che siano contagiosi e del fatto che siano tanto più contagiosi quanto due persone si vogliono bene si amano, hanno un feeling affettivo. Ne avevamo parlato con Elisabetta Palagi ed Elisabetta Palagi ovviamente è qui con noi oggi. Buon anno anche a lei. Buon anno. Salve, ciao, buon Elisabetta. Anno a voi. Ecco, la ricerca sullo sbadiglio in realtà è andata avanti, è interspecifica, possiamo dire così, perché avete studiato una specie che non è Homo sapiens sapiens, ma bensì il bonobo, che è il Pampaniscus. Ecco, il Pampaniscus. Intanto spieghiamo che cos'è il bonobo, forse non tutti lo sanno. È la specie. È il nome del latino del bonobo. Ah, ok. Che è uno scimmiottone. È una specie, diciamo, abbastanza simile allo scimpanzé, anche se insomma non è poi così simile come si pensava all'inizio. Un po' più esile, più magrolino. La stessa è simile, però è un pochino più esile, gambe più lunghe, forma più slanciata. A mio avviso, ma è un mio parere chiaramente assolutamente mio, un po' più elegante. Però sbadiglia. Lo scimpanzé è tra i nostri cugini più prossimi, insomma. Esatto. Sono quelli che ci sono più vicini dal punto di vista evolutivo. E appunto, proprio a questo proposito, la somiglianza è ulteriore, perché avete osservato questi animali e vi siete accorti che in effetti quando uno sbadiglia anche l'altro viene contagiato. Esatto, è successo proprio questo. Dunque abbiamo intanto dimostrato che il fenomeno del contagio dello sbadiglio è presente anche in questa specie. Diciamo, il risultato non ci ha sorpreso, in quanto altre specie di primati sono stati, diciamo, trovati suscettibili degli sbadigli altrui. La cosa invece però che abbiamo voluto fare è stato quello di applicare la stessa esatta metodologia di studio che abbiamo applicato all'uomo. Il lavoro, infatti, come avete già accennato, è uscito circa un anno fa, e anche a questa specie, in modo tale da avere dei dati perfettamente comparabili. Quindi gli stessi osservatori, con gli stessi occhi e con gli stessi metodi, hanno guardato nello stesso modo due specie diverse, la nostra e il bonobo, e incredibilmente abbiamo trovato risultati perfettamente sovrapponibili. E il risultato sorprendente, appunto, è stato che effettivamente i meccanismi e le dinamiche che sottendono al contagio dello sbadiglio sono le medesime sia tra gli umani come tra i bonobo. Cioè? Dal punto di vista cerebrale. Intanto dal punto di vista cerebrale ci sono studi, dal punto di vista, diciamo, neuroanatomico ci sono degli studi che stanno indicando che comunque questo meccanismo si basi su un sistema dei neuroni specchio, che non è un caso che siano stati scoperti prima nella scimmia e poi nell'uomo. Ecco. Quindi questo è un dato incontrovertibile. Proprio tra l'altro, il fattore imitativo. Una pubblicazione da pochissimi giorni che ci dice, è uscita giusto prima di Natale, che ci dice che effettivamente i neuroni specchio hanno un'importanza notevole nel contagio di questo comportamento. E la cosa incredibile è stata proprio che abbiamo trovato che, così come nell'uomo il contagio dello sbadiglio avviene più frequentemente, più velocemente, più rapidamente tra persone che hanno un legame emotivo, così certo. Accade la stessa cosa anche nel bonobo. Ah, quindi proprio... È una conferma di una continuità, ma nel senso la mamma col figlio, due fratelli... La coppia anche. La mamma col figlio, oppure animali o persone che sono molto vicini dal punto di vista emotivo, quindi che passano molto tempo insieme, che si supportano vicendevolmente, nel caso delle scimmie che hanno frequenti interazioni di grooming, oppure nel caso del bonobo che scambiano frequentemente il cibo, cioè passano cibo da un individuo all'altro. Quando c'è questo scambio reciproco, generalmente il legame è molto forte. E tra queste diadi, tra queste coppie di soggetti, abbiamo trovato che il veicolo Badiglio è un veicolo che funziona molto bene, così come accade appunto nella specie umana. Ecco, Elisabetta, noi ti sentiamo spesso appunto parlando di primati, perché lo ricordiamo, tu lavori al centro interdipartimentale del Museo di Storia Naturale e del Territorio all'Università di Pisa, ma anche all'Unità di Primatologia Cognitiva al CNR di Roma. E a questo proposito approfittiamo della tua super preparazione, perché in questi giorni è uscita un'altra notizia: le grandi scimmie, comprendono gli scimpanzé e gli orangutan per dire, avrebbero le crisi di mezz'età. Che di solito però sono legate al lavoro, per esempio, a una professione, a un momento. Cioè sui 40 anni cominciano a fare jogging e a giocare a tennis. Dunque, in realtà un po' prima. Perché non vivono 80 anni. La crisi di mezz'età nell'uomo è concentrata intorno ai 45-50 anni, quindi ahimè io ci sono nel mezzo. Ma per gli scimpanzé e gli oranghi sembra che sia tutto anticipato intorno ai 30. Okay. Questo perché? Perché chiaramente lo sviluppo di uno scimpanzé e di un orango è leggermente diverso da quello di un uomo. Ma cosa fanno? Cos'è che succede? Dunque, in realtà lo studio si basa non su osservazioni dirette, perché il campione è molto grande, sono più di 500 animali, ma su questionari che sono stati forniti alle persone che si prendono cura di questi animali. E chiaramente è un lavoro che è stato fatto in cattività, nel senso che i centri di recupero e negli zoo, in quanto chiaramente l'età dell'animale doveva essere certa. Sì. Cosa che in natura invece è molto difficile da ottenere. E che è venuto fuori? Sì, insomma, che in effetti anche loro hanno questa famosa curva U, per cui hanno euforia, gioia di vivere nei primi anni, si riprende negli ultimi, e però questo imbuto a mezz'età. Sì, dunque il risultato è stato che effettivamente c'è un link forte, un legame forte tra queste risposte che hanno dato questi curatori, diciamo, degli animali e l'età dell'animale. Quindi sembra che i giovani soggetti siano quelli che sono più propensi a questa grande motivazione all'azione, eccetera. Poi c'è un calo intorno appunto ai 30 anni, fino a che poi col passare degli anni, quindi diciamo quando l'animale diventa anziano, questa cosa tende a migliorare di nuovo. Senti, immaginando appunto questi animali, per esempio negli zoo, gli oranghi hanno sempre, per esempio, delle ruote di gomma, dei pneumatici appesi al soffitto, sui quali ogni tanto si dondolano. Cosa hanno verificato, per esempio? Che si attaccano con più svogliatamente, oppure che mangiano sì, più lentamente? Più anche, esatto, che magari che ne so, una frequenza di gioco, quindi un'attività ludica minore, oppure un'attività minore di tipo sociale, quindi una minore quantità di interazioni sociali. Ora, io devo essere sincera, quindi fuori dai denti lo devo dire, questo tipo di studi che si basano su questionari mi lasciano sempre un pochino perplessa, perché diciamo l'etologo vero va sul campo, vero Elisabetta? Va sul campo e soprattutto deve comunque, quando anche osserva insieme a qualche altro collaboratore, deve anche testare la validità dell'osservazione. Hai ragione. Ok, ecco, questo metodo di indagine. Accettiamo la critica e siamo d'accordo con te. Mi lascia un po' perplesso. Benissimo, con grazie riserva, allora. Notizia con riserva. Buon lavoro e ci sentiamo presto, tanto lo sappiamo che sei una macchina da guerra. Grazie, buon lavoro anche a voi. Vi parlo di un libro adesso, anzi per la precisione di 7 libri, che però sono un'opera unica, una storia della tecnologia edita da Bollati Boringhieri, ma adesso vediamo che questa impresa editoriale ha veramente mette insieme degli ingredienti singolari, molto singolari. Ne parlo con Gian Arturo Ferrari. Buonasera Ferrari. Buonasera. presidente del Centro per il Libro e la Lettura. Lei ha curato un'introduzione abbastanza ampia a questa storia della tecnologia. Il primo dato singolare che dobbiamo dire è che esce oggi, viene rieditata oggi, un'opera che ha quasi 45 anni, insomma, fece la sua prima apparizione tra i primi anni 60 e poi ci fu qualcosa anche nei primi anni 70, del resto sono 7 volumi, no? Sì, sì, sì. Dove nasce? Nasce in Inghilterra? Sì, beh, l'opera è ancora più vecchia di quello che diceva lei, per così dire, più anziana, diciamo meglio, nel senso che viene progettata e viene poi varata la stesura nell'immediato dopoguerra, cioè appena alla fine della guerra, e viene poi pubblicata, il primo volume viene pubblicato dalla metà, grosso modo, degli anni 50. Ah, quindi e, ancora prima. Sì, sì, 54 è il primo volume. Poi mano a mano seguono tutti gli altri e nel frattempo, a una distanza apparentemente lunga, ma in realtà invece è abbastanza breve, cioè di 6 o 7 anni, compare in traduzione italiana. Per cui il primo volume della traduzione italiana comparve all'inizio degli anni 60, pubblicato da Boringhieri, che allora era solo Boringhieri. Era Paolo Boringhieri, che era stato il redattore, come si chiamava allora, scientifico di Einaudi per lungo tempo, poi aveva scorporato da Einaudi una parte delle pubblicazioni facendo le edizioni scientifiche Einaudi e poi infine le aveva acquistate e era diventata la casa editrice Boringhieri. Questa storia della tecnologia, Ferrari, resta ancora oggi l'opera più ampia e più estesa su appunto questa attività umana così vasta e complessa. Sì, certo, anche per la ragione che l'opera è la che definisce che cosa sia la storia della tecnologia, nel senso che il mondo, l'orizzonte delle cose che confluiscono all'interno della tecnica e della tecnologia è quanto mai variato e quanto mai complesso. La forza principale della storia della tecnologia è di dargli dei confini e, per così dire, un baricentro. I curatori dell'opera pensano che quello che sia veramente importante è il progresso tecnico, il mutamento tecnico, ed è su questo fenomeno che loro concentrano la loro attenzione, piuttosto che non invece, per esempio, sull'uso di dispositivi tecnici, sulla loro diffusione, su tutti gli aspetti che insomma confinano di più con la cultura materiale. A loro non interessava tanto la cultura materiale, interessava il progresso della tecnologia concepito analogamente al progresso delle scienze. È la tesi forte della storia della tecnologia che la tecnologia stessa finisce poi per coincidere con la scienza, quindi tecnica e scienza sono due linee che convergono e da un certo punto in avanti sono praticamente la stessa cosa. Io posso aggiungere che appunto in questi 7 volumi, ovviamente io gli ho dato una scorsa abbastanza rapida e ho guardato qualche capitolo, poi c'è proprio una capacità di descrivere delle singole attività. Ho visto pagine estremamente curiose e interessanti sulla costruzione delle case, sul ruolo e sul mestiere del muratore, e sono veramente interessanti per vedere per esempio come questa attività di costruzione di edifici si sia evoluta nel tempo. Non c'è stato, allora dicevamo prima, non c'è stato niente di così ampio, siamo arrivati fino ad oggi e quindi questa storia della tecnologia mantiene anche una sua attualità consistente, cioè i contenuti sono assolutamente validi pure oggi. Sì, diciamo che loro realizzarono, i quattro curatori dell'opera, per riuscire a edificare una costruzione così ampia e così articolata, ricorsero a una serie di collaboratori, facendo scrivere ad ognuno un saggio specializzato sulla singola branca, sul singolo aspetto di cui erano esperti. Quindi arruolarono, in parole povere, una specie di esercito di collaboratori e riuscirono però, e questo è stato il loro maggior risultato, ad amalgamarli molto bene gli uni con gli altri, mantenendo un tono uniforme attraverso tutta l'opera. E quindi l'insieme, che è un insieme abbastanza gigantesco, è però anche omogeneo e di lettura facile. Agevole, assolutamente. Facile, agevole, cioè non è un'opera scientifica nel senso negativo del termine, no. Non è un'opera che respinga, anzi lo attrae, lo coinvolge, e nello stesso tempo nessuno poi dopo, come accennava giustamente, è riuscito a rimettere insieme un simile esercito e a rifare questa impresa, anche perché, a dire la verità, non è che ce ne fosse poi tutto questo bisogno, insomma. Ma l'impianto complessivo è invece, secondo me, tuttora valido. L'altro dato singolare che dobbiamo dire è che questi volumi escono mediamente a dei costi con dei prezzi molto bassi, insomma tra i 10 e i 12 euro, quindi è un'opportunità notevole anche dal punto di vista del lettore che voglia avere in casa uno scenario di questo genere. Gianarturo Ferrari, la ringrazio. Ricordo Storia della tecnologia, sono tanti volumi, edito da Bollati Boringhieri. Buon Grazie lavoro Ferrari. Con Chiara Albicocco vado a comprare un tubo per innaffiare. Sì, io potrei invece comprare dei nastri infiniti. Tu potresti dei nastri di stoffa sì, per fare o delle tende. Lo facciamo in compagnia di Corrado Maggi. Buonasera Maggi. Buonasera. Consigliere delegato della Maggi Group di Lecco. Avete inventato noi ogni tanto qui a Mebio ci interessiamo di innovazione e ci capitano anche queste innovazioni che sono, come dire, molto semplici ma e anche molto specifiche. Molto specifiche, però sono molto intelligenti, molto curiose anche da raccontare. Noi continuiamo a dire lo scaffale che dà lo scontrino. Comunque, allora, io e Chiara dobbiamo comprare 9,5 metri di un tubo di gomma. Qual è, diciamo, l'aspetto innovativo che voi proponete? Fondamentalmente è una revisione del processo d'acquisto di prodotti che sono vendibili a metro attraverso uno scaffale elettronico. Ci avviciniamo allo scaffale, che cosa c'è? C'è un tablet, quindi un terminale interattivo touch sul quale impostiamo il prodotto scegliendolo con un numero, come succede per esempio al supermercato con la frutta, e definiamo la lunghezza che ci interessa, impostiamo la lunghezza che ci interessa avere in questo prodotto. Lo scaffale alla fine dell'operazione è in grado di darci, tagliandolo, il prodotto che abbiamo acquistato e fornirci uno scontrino che riporta tutti i dati del prodotto per poi andare alle casse e quindi evitare la vendita di fatto assistita e di chiamare il responsabile del reparto per il taglio e la definizione del prodotto. Anche tutta la fase di metratura e srotolamento eccetera eccetera viene fatta tutta in automatico, e questa è un po' la parte interessante dal punto di vista innovativo. Certo, dipende dagli optional, diciamo, che vengono montati sullo scaffale. Si può montare un motorino automatico per lo srotolamento, oppure l'operazione può venire fatta dalla persona, diciamo, in maniera semiautomatica, passando attraverso un contatore che però lo aiuta a contare in maniera corretta e consente la definizione del prezzo totale del prodotto. E in effetti ci sono degli oggetti che vanno a metro che non è banale misurare in loco. Questa applicazione nei grandi centri di bricolage e giardinaggio che, insomma, conosciamo nelle nostre città, ecco, lì in effetti c'è sempre un addetto che bisogna aspettare che finisca il cliente precedente, che ti srotola, ti misura, qui ti ridà un pezzettino di carta dove ti dice il prezzo. Qui è tutto, come dire, fai da te, un po' come funziona per la frutta al supermercato, ma in questo caso appunto non si va a peso ma a lunghezza. Ecco, ma senta Maggi, questa cosa immagino che utilizzerà anche il fatto che viene memorizzata tutta questa operazione, no? È un computer. Certo, di fatto il fatto di avere un computer, un tablet a banco comporta tutta una serie di vantaggi. Per esempio, dall'identificazione del prodotto in automatico attraverso un lettore di tag o un transponder, oppure anche la gestione del valore patrimoniale del banco e quindi dello stato inventariale del banco, oppure delle riemissioni degli ordini di approvvigionamento quando i prodotti che sono raccolti su bobine, prodotti quindi acquistabili a metro, stanno terminando e non è facile determinarne a priori la lunghezza rimasta se non attraverso un computer. Dovrebbe eliminare la famosa frase "e adesso devo andare a vedere in magazzino se ne ho ancora". Esatto, che è una frase ricorrente quando si va a comprare queste cose, perché oggi i magazzini sono costosi e le aziende fanno molta attenzione alle politiche di stock dei propri prodotti. Certo. Senta però Maggio, uno scaffale di questo genere, bisogna sempre tener conto di queste cose quando si parla di innovazione. Costa tantissimo di più di uno scaffale normale a braccio? È chiaro che costa di più, però diciamo che noi abbiamo fatto questo scaffale anche per veicolare i prodotti che noi vendiamo alla grande distribuzione. E il costo di questo scaffale è compatibile con la tipologia di contratti che per la nostra linea di prodotti noi possiamo fare in ferramenta. Quindi diciamo che in questa fase costa più di quello che costerà più avanti, che siamo in fase di prototipazione. Di certo, all'inizio. Noi abbiamo installato in alcuni negozi in Italia lo scaffale per fare le opportune verifiche, per fare le modifiche, eccetera. Prevediamo in futuro che sia uno degli elementi da proporre nella nostra offerta commerciale, certo, insieme ai prodotti. E come tutti questi prodotti innovativi, lei ha brevettato, diciamo, questa cosa, perché non esisteva prima, anche se, come dice Federico, le idee sembrano semplici, però poi in realtà non esisteva prima un sistema simile. Non esisteva un sistema siffatto, è stato infatti brevettato a febbraio del 2012, non esisteva, nel senso che esistevano separatamente alcuni concetti, come, non so, l'unità contametri, ma non un assieme che fosse in grado di erogare attraverso l'utilizzo di un'interfaccia elettronica interattiva con un appunto lettore contametri ed erogare un prodotto stampando uno scontrino. Questo concetto è stato brevettato dalla mia azienda a livello europeo. Brevetto europeo, Nasce come brevetto europeo, stiamo decidendo in queste ore se deve diventare PCT, cioè brevetto internazionale per il mercato soprattutto americano, dove queste realtà sono molto forti del bricolage. Bene, in bocca al lupo allora Maggi. Grazie mille. Quante volte, Chiara, abbiamo parlato in onda dell'aumento di 1,5 gradi, 2 di temperatura sul nostro pianeta globale, scenario che si prospetta per varie ragioni, ma insomma sappiamo che è una delle grandi battaglie nelle quali siamo impegnati praticamente in tutti i paesi del mondo. Bene, questo aumento può avere dei riflessi particolarmente problematici in agricoltura. Per parlare di questo abbiamo qua questa sera Ilaria Pertot. Buonasera Pertot. Buonasera. Buonasera. Lei è agronoma ed è coordinatrice del Dipartimento Sostenibilità della Fondazione Edmund Mac, Fondazione Trentina. Senta Ilaria, lei sta lavorando a un progetto che è finanziato dalla provincia autonoma di Trento, ma è uno di quei finanziamenti abbastanza grossi che coinvolge anche altri paesi, no? Internazionale? Esatto. Abbiamo delle istituzioni trentine e abbiamo la partecipazione di due prestigiose istituzioni, una in Israele, il Volcani Center, e una in Svizzera, che è il Politecnico Federale. Temiamo che dalle cose che lei ci sta per raccontare venga fuori un problema non male complesso. Aumento di 2 gradi, anche uno, e questo cosa significa? Grandi cambiamenti che si riflettono su esseri piccoli. Esatto. Ha detto proprio perfettamente, ha passato perfettamente il concetto. Noi assisteremo in futuro a dei cambiamenti climatici che già stiamo un po' sperimentando in questi periodi, dei cambiamenti climatici che però non ci cambieranno completamente la vita. Se però noi andiamo a guardare gli insetti, le malattie delle piante, questi cambiamenti per loro sono molto importanti perché dipendono moltissimo dalle condizioni ambientali, non essendo animali a sangue caldo come noi, come la temperatura e come l'umidità. Sugli insetti, per esempio, prendiamo questo aspetto qui, cioè bastano 1-2 gradi in più e che cosa potremmo ritrovarci? Per esempio anche quantitativamente molto di più? Allora, diciamo che il fenomeno è molto complesso, infatti grazie a questo progetto siamo riusciti a sviluppare una piattaforma che ci permette di capire tutta la sua complessità, perché gli organismi dipendono dalle condizioni ambientali, ma dipendono anche dai rapporti che hanno tra loro, quindi l'effetto del clima non è sul singolo organismo, ma è sulle interazioni tra tutti gli organismi. Quindi quello che noi vedremo in realtà non sarà uno scenario apocalittico, però dovremmo cambiare un po' le nostre priorità. Gli agricoltori, ad esempio, dovranno dare più importanza delle malattie, degli insetti che adesso non sono molto importanti, ma che diventeranno importanti in futuro e viceversa. Beh, qui il punto è cruciale, nel senso che se per un insetto l'aumento di 2 gradi vuol dire una riproduzione smisurata, ecco che potrebbe essere un disastro nel giro di pochi anni per delle coltivazioni precise che magari sono particolarmente sensibili a questi parassiti. Noi appunto, sentiva Chiara adesso, noi tenderemo a pensare che il problema sia piuttosto intenso. Lei dice che forse è gestibile, insomma, non è così grave. Che si può prevenire, forse. sì, si può però sicuramente prevenire. Quello che lei dice è infatti corretto. Gli insetti dipendono dalla temperatura, più la temperatura si alza entro dei certi limiti, più aumentano la velocità di crescita e quindi le generazioni. Però ad esempio per quanto riguarda l'agricoltura, anche la pianta con il caldo anticiperà il suo ciclo produttivo. Mm-hmm. E quindi i danni poi che ci troveremo a dover affrontare non saranno così importanti. C'è una compensazione. Una compensazione. Ovviamente, come dicevo prima, alcune malattie che adesso non sono importanti, perché ad esempio non abbiamo sufficiente temperatura o la pioggia è dannosa o favorevole, ecco, nel caso in cui ci sarà un cambiamento, noi potremo assistere a un incremento di importanza di queste malattie. Mm. Quindi l'agricoltore, sapendolo da ora, potendolo prevedere da ora, potrà, grazie all'aiuto anche poi della ricerca, adottare quei sistemi e quei protocolli e quei prodotti che potranno permettergli di contrastare questo effetto. Quindi il messaggio è: ci sarà un cambiamento, ma conoscendolo prima potremo gestirlo meglio. Ed è questo un po' lo scopo, ecco, del vostro grosso progetto. Esatto, e infatti quello che noi, un altro aspetto che noi vediamo già in questi giorni è l'arrivo di insetti e malattie nuove. Ecco, noi conosciamo la zanzara tigre come cittadini, però anche in agricoltura abbiamo insetti che sono arrivati un po' per i cambiamenti globali, e questo era un altro tema del progetto, ma che arrivano anche perché la temperatura alzandosi gli permette di spostarsi dai loro luoghi originari verso i nostri ambienti. Come i pesci del Mar Rosso che incominciamo a vedere nell'Adriatico. Conquistano, esatto, nuovi habitat. Esatto, e quindi conoscere per tempo quali potranno essere le minacce, sapendo che potrebbero adattarsi, ci permette di fare dei monitoraggi sul territorio europeo per diciamo fermare appena entrano nel territorio, e nel caso malaugurato in cui potessero poi arrivare, ovviamente intervenire già con degli strumenti come prodotti fitosanitari. Ecco, strumenti. So che una parte bella e interessante della vostra ricerca entra dentro la creazione di strumenti, per esempio di monitoraggio. State mettendo a punto, lo avete già messo a punto, adesso ce lo dirà, un sistema per riuscire ad avere un'analisi molto più fine di quello che succede nei campi, no? Esatto, noi con questo sistema diciamo georeferenziato siamo in grado di prevedere cosa succederà nel singolo vigneto, cosa che al momento nessun sistema riesce ancora a dirci. E quindi applicando poi dei modelli potremmo dire all'agricoltore esattamente in quel vigneto lì quale tipo di intervento potrà fare in modo di ottimizzare il suo lavoro. Aspetti, che lei ha detto georeferenziato, vuol dire che cosa usate? Satelliti che riescono a analizzare un chilometro quadro per chilometro quadro? Ma in realtà usiamo delle mappe, e quindi c'è un sistema informatico che utilizza le mappe del territorio. Ah. E su ogni punto del territorio ottiene una previsione basata su una simulazione, su un modello. Ah, sul e modello. Quindi quello che noi potremo vedere al computer è quello che succederà in quel preciso vigneto, in quelle determinate condizioni. Siamo in grado di simulare una stagione, quindi ovviamente è una simulazione, non ci dirà che esattamente nel 2074 avremo esattamente quella pioggia quel giorno lì, però sarà una simulazione statisticamente affidabile che ci può permettere di fare poi delle pianificazioni. E mettere a punto quello che dicevamo prima. Delle risposte. Esatto. Delle risposte. Però esatto. Il dato essenziale è che voi riuscite a dare indicazioni per superfici molto piccole, molto ristrette. Oggi come oggi invece abbiamo dei dati che sono molto vasti e quindi non consentono un'azione precisa. Esatto, questo è il limite dei modelli che esistono attualmente. Il lavoro che abbiamo fatto, grazie anche alla collaborazione con i colleghi di Meteo Trentino e con la Fondazione Bruno Kessler, siamo riusciti appunto a trasformare questi dati che esistono su scale molto, molto, molto ampie, su scala regionale, su scala territoriale, e in territori come le Alpi, come diciamo il sud delle Alpi, dove abbiamo una caratterizzazione molto, molto complessa con

è il racconto del progetto di un fotografo statunitense, James Baylog, che per 5 anni ha scattato una foto ogni mezz'ora ad alcuni ghiacciai in Islanda, Groenlandia e Alaska. Ebbene, queste foto ci mostrano come i ghiacciai si siano ritirati in misura impressionante e ci fanno vedere, più di qualunque studio, grafico o statistica, che il cambiamento climatico è in azione e i suoi effetti sono sotto i nostri occhi. Il documentario, in concorso per il premio Oscar 2013, sarà nelle sale italiane a fine gennaio. Abbiamo incontrato il protagonista del progetto, proprio lui, il fotografo James Baylog. Well, we've been working on this since 2006, but it really comes out of 35 years. Questo progetto nello specifico è nato nel 2006, ma è il risultato di 35 anni trascorsi in montagna a contatto con la natura in veste di fotografo professionista e ambientalista. Quindi alla base c'è un grande amore per la montagna, un amore particolare per le regioni polari, artiche, e il tentativo attraverso l'arte di collegarsi alla scienza e di dare vita a quello che è la realtà che ci circonda. Bring life to what's happening in those landscapes. Lei dice che nel 2006, appunto, è tornato in Groenlandia, se non sbaglio, è tornato e ha rivisto gli stessi luoghi che aveva visto l'anno prima ed è rimasto impressionato da come questi luoghi erano cambiati. Sì, è davvero sorprendente come il ghiaccio cambia e si riduce in un lasso di tempo molto breve. Il riferimento in particolare è all'Islanda, ma è una situazione che vale anche per la Groenlandia, per l'Alaska, ma anche qui per le Alpi europee. Ma entriamo un po' nel dettaglio appunto tecnico di come è stato realizzato il progetto. C'è una parte delle fotografie che sono quelle che dimostrano l'arte e l'architettura del paesaggio, che sono semplicemente degli scatti singoli, e poi invece è stata utilizzata la tecnica del time-lapse per verificare il cambiamento di questo stesso paesaggio nel corso del tempo, e questo ha richiesto uno schema, un programma tecnico estremamente complesso, perché di fatto questi apparecchi fotografici hanno assunto il ruolo di piccoli robot animati con una vita indipendente, appunto, in un arco prolungato di tempo, e hanno scattato immagini ogni mezz'ora alla luce del giorno nell'arco di tutto l'anno, in situazioni veramente estreme, con venti fino a 250 km orari, con temperature che hanno raggiunto i meno 40 gradi, con tempeste di neve e pioggia battente. Quindi è stata una lavorazione molto molto complessa. In tutto questo James Baylog non era da solo, naturalmente. La squadra è abbastanza nutrita, come si vede dai titoli di coda del film. Qui con noi c'è anche Jeff Orlowski, che è il regista e che ha seguito tutto il progetto dall'inizio. Buonasera, Jeff. Buonasera. Nel film vi vediamo a mollo nell'acqua gelida, vi vediamo in mezzo al fango, appesi a delle funi, in mezzo ai ghiacciai. Insomma, quanto è stato faticoso e anche pericoloso realizzare un film di questo genere? Honestly, that was the fun part of the whole project. We got to be out in those conditions, we got to be out on the Greenland ice sheet. In realtà questa è stata la parte divertente per noi. Diciamo che questo genere di difficoltà in qualche modo faceva parte del gioco, e ogni singolo componente di questa squadra che ha contribuito alla realizzazione del film ha sposato questa sfida e voleva assolutamente far parte del progetto, e quindi ha profuso una grande passione per l'amore per questo progetto. Il progetto non è ancora concluso. No, the project is going on forever, apparently. È un progetto che in realtà non ha una fine, non è previsto che abbia una fine. Ci sono tuttora 32 macchine fotografiche e videocamere che stanno continuamente registrando i cambiamenti ogni mezz'ora, e l'intento appunto è quello di non concluderlo, questo progetto. So there is no end. Finché il mondo non cambia idea, almeno. Yeah, grazie, it's very good to be here. Grazie a tutti. Sto per parlarvi di una storia che è abbastanza singolare, affascinante, e che è un dato che probabilmente a molti che non si interessano, insomma, fortemente di antropologia, di storia, dell'economia, potrà sembrare sorprendente. Invece la ricerca lo sta confermando sempre di più. Per discutere di questo tema ho qui in studio con me Alberto Alesina. Buonasera Alesina. Buonasera a lei. Lei è docente di economia alla Harvard University e anche alla Bocconi di Milano. Lei ha scritto un bell'articolo sull'inserto di libri e cultura del Corriere della Sera, La Lettura. Questo articolo, abbastanza ampio, ruota intorno a uno strumento, l'aratro, uno strumento che certo nella storia dell'umanità, quando è apparso, ha avuto una funzione di cambiamento certamente cruciale, insomma, importante. Però è pur sempre uno strumento. Nel suo articolo lei dice: questo strumento, ormai abbiamo la conferma, che è all'origine di una divaricazione che c'è stata a un certo punto tra il ruolo delle donne e il ruolo degli uomini, i maschi e le femmine. Beh, l'aratro è un attrezzo che per usarlo ci vuole forza, e bisogna maneggiare l'attrezzo e tenere sotto controllo le mani pesanti, quindi è un attrezzo che richiede una forza fisica e non è compatibile con la cura dei bambini, perché è pericoloso averle vicino ad animali grandi e potenti. Mentre la cultura a rotazione con la zappa è una cultura che veniva praticata anche e talvolta soprattutto dalle donne. E questi due tipi di agricoltura sono state scelte in funzione delle necessità, della geografia, dei territori, e hanno portato in antichità a delle diverse organizzazioni della famiglia in un caso o nell'altro, e questo è un dato di fatto. Poi la cosa sorprendente credo che sia che queste lontanissime origini poi ci sono tramandate, ancora oggi sono verificate delle differenze nella partecipazione al lavoro delle donne in società che poi sono anche uscite dall'agricoltura, sono diventate poi anche industriali. Certo, c'è un momento iniziale in cui viene a determinarsi una differenza, e qui però, mi scusi Alesina, la differenza sta anche nel fatto che c'è uno strumento che diventa determinante per lo sviluppo della società ed è gestito dal maschio. Esatto, è gestito dal maschio per ragioni di forza. Fisiche, diciamo. Certo. Quindi questo poi genera un'organizzazione di un certo tipo della società, che poi si tramanda di generazione in generazione. Questa è un'intuizione che avevano già avuto antropologi e storici. Credo che il contributo di questo lavoro con il mio collega Nathan Nan e Paola Giuliano di UCLA è stato quello di verificare in modo diciamo preciso, con una ammontare di dati disponibili oggi, un'intuizione che altri antropologi avevano già avuto. E quindi ci vuole la combinazione di un ruolo di uno strumento e di un ruolo che è cruciale appunto nel contesto, nella collettività. Voi dite anche che ci raccontate anche che la traccia di questa prova, insomma, di questo evento, arriva fino ad oggi, cioè noi abbiamo delle popolazioni in cui vediamo qualcosa che ce lo dimostra. Certo, ci sono dei paesi con la partecipazione al lavoro femminile enormemente diversi, anche paesi poveri, che in alcuni paesi poveri le donne partecipano molto poco, come Pakistan per esempio. In certi paesi africani invece la partecipazione al lavoro femminile è altissima, vicino al 90%, quindi è difficile spiegare queste differenze solamente con fattori puramente economici, senza avere anche delle valenze culturali. E il contributo di questo lavoro è di dimostrare che queste differenze culturali hanno delle origini molto molto antiche, si tramandano di generazione in generazione. Ma in questi paesi a cui lei sta facendo riferimento, noi abbiamo avuto metodi di coltivazione diversi, che non usavano l'aratro o lo usavano, esatto, pochissimo, e questo è il dato. Queste differenze tra paesi e paesi possono farsi risalire a diverso uso dell'aratro, ma tra l'altro vorrei far notare che anche all'interno dello stesso paese ci sono dei gruppi etnici, delle aree all'interno di uno stesso paese che abbiamo esaminato in cui si usava o non si usava l'aratro, e anche all'interno di uno stesso paese ci sono delle differenze di partecipazione al lavoro femminile. Certo, lo strumento diverso dall'aratro che potevano usare anche le donne è la semplice zappa. Sì, la zappa e altri strumenti di piccole dimensioni che servivano per la coltivazione a rotazione, diciamo. Certo, perché l'aratro introduceva una capacità di coltivazione in termini di tempi, di efficienza, di profondità molto superiore a quella della zappa. Esatto. Quanto tempo fa, insomma, in che periodo siamo storico? Beh, i dati che sono disponibili sull'uso dell'aratro in diversi gruppi etnici, in diverse aree del mondo, sono dati antropologici che risalgono al periodo precoloniale e preindustriale, quindi stiamo parlando del 600, 700, 800, naturalmente l'aratro è stato introdotto prima in alcuni posti, ma i dati su chi usava e chi non l'usava non ci sono, sono dati antropologici che risalgono a quest'epoca, diciamo, precoloniale e preindustriale. Certo, però quella divaricazione di cui stiamo parlando è avvenuta invece molto tempo fa. Quella divaricazione è avvenuta molto prima, però i dati precisi su chi usava l'aratro, chi non l'usava, sono disponibili in quelle, da dati ricerche antropologiche disponibili per quella. Poi naturalmente per certi paesi, per certe aree, alcuni storici hanno, si possono risalire a molto prima, ma però per avere una visione, diciamo, globale di tutto il mondo si risale a quell'epoca lì. Senta, però mi viene questa domanda, probabilmente ci avete ragionato. L'aratro è certamente questo strumento che esalta la forza fisica e quindi può dare, come dicevamo, al maschio una chance di ruolo determinante e quindi genera questa sua predominanza. Però mi sto domandando, altrettanto antica, ahimè, è la violenza, la guerra, insomma, e anche lì una mazza, una clava, un qualcosa usato dal maschio, altrettanto non dovrebbe essere stato più questo lo strumento divaricante? Sì e no, nel senso che sono state fatte guerre sia in paesi che usavano l'aratro sia in paesi che non usavano l'aratro, quindi le guerre ci sono state in vari parti del mondo, in varie etnie, e sicuramente la guerra era un'attività maschile, ma la guerra ci sono state dappertutto, più o meno dappertutto, ma la differenza che permane nell'aratro, che deriva dall'aratro, rimane. Nella nostra analisi abbiamo controllato per una serie di altri fattori, lo sviluppo, diciamo, economico di diverse aree, di aree che erano più avanzate o meno avanzate, diverse caratteristiche geografiche, la presenza di fiumi, di acqua, le abbiamo controllato per una serie di cose che potrebbero spiegare le differenze di organizzazione sociale, ma nonostante tutti questi altri, diciamo, controlli, l'aratro emerge sempre fuori come un elemento determinante. Sì, poi non è detto che la maggiore efficienza in guerra sia di per sé qualcosa che si proietta in un ruolo dominante nella collettività, mentre invece la quotidianità, no, dell'aratro, la sua funzione per una migliore sopravvivenza, per un'alimentazione più efficiente, magari funziona molto di più del maneggiare una clava, non è detto. Tra l'altro anche le esperienze più recenti, quando ci sono guerre in cui gli uomini sono a combattere, le donne assumono ruoli produttivi, certo, maschili, e quindi in un certo senso, per esempio durante la prima guerra mondiale, le donne hanno cominciato a fare cose che prima facevano gli uomini perché erano impegnati a combattere, quindi talvolta le donne assumono attività economiche importanti proprio perché gli uomini non ci sono e sono a combattere. Sì, sì, in un certo, sì, senso la guerra potrebbe avere un effetto quasi, sì, contrario. Potrebbe essere una cosa apparente, invece se ci andiamo sotto possiamo verificare che è molto, molto meno significativa. Alberto Resina, grazie, buon lavoro e buona ricerca. Grazie a lei, arrivederci. Io non ho altro da raccontare, tu hai altre robe? Io avrei altre cose da raccontare, ma purtroppo ci sono altre persone che incombono dietro di noi, dobbiamo uscire dallo studio. Alla prossima settimana, ci sentiamo per 7 giorni, ancora qui con Mebius. Buona serata! Buona serata a tutti e a tutte. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.